Parte seconda, capitolo 13. Punti di partenza. Sushen. Fra pochi minuti avrebbero tolto la passerella e Sushen mi avrebbe lasciata. Già i tromboni e i clarinetti intonavano incoerenti canzoni di addio. Le voci felici e lacrimose degli amici si alzavano eccitate. Il suono acuto delle sirene squarciava il ponte. I sampan, grevi di urla e di scoppi augurali, si allontanavano dalla nave. Sushen prevedeva di soffrire il mal di mare per tutta la durata del viaggio. Baby, una Sushen in miniatura, con sopracciglia di un nero azzurrino e fossette rosa, giaceva beata ed evidentemente interessata nelle accoglienti braccia di una sorridente amah cantonese. La Ma indossava i suoi più bei pantaloni di seta nera e una casacca bianca. C'era un che di rassicurante nel suo ampio sorriso, che metteva in mostra i forti denti bianchi e irregolari, e nelle sue larghe e lucenti scarpe di vernice nera con punta quadrata e grande fibbia di acciaio. La Ma era felice, andava in America. Sushen non aveva avuto molte difficoltà a realizzare il suo sogno, poiché la sua stessa inettitudine e mancanza di praticità facevano sì che gli amici l'aiutassero volentieri. Amici di suo marito le avevano procurato il passaporto, i visti necessari e persino la Ma. Inoltre le sue finanze erano rifiorite perché il marito, prima della sua morte, avvenuta ad opera dell'ultimo governo per accusa di collaborazionismo, aveva messo al sicuro all'estero per la moglie e la figlia un piccolo tesoro costituito di verghe d'oro e di merci giapponesi. Che farai in America, Sushen? Sarò felice. E non tornerai più? Mai più. Sono stanca di terrore, di malattie, di fame, di miseria, di vedermi sempre circondata da poveri. In Cina non ci sono che folle e miseria. Molti dei nostri amici lasciano la Cina, ben decisi a non metterci più piede. Tu, che la pensi diversamente, Su Yen, vivi fra le nuvole. Io voglio potermi sentire sicura e tranquilla. Sicurezza. Tutti cercavano sicurezza. Non era più una parola, bensì un idolo esigente a cui bisognava sacrificare la propria vita, ma io non potevo adorarlo e dedicargli la vita, non potevo che cercare di mantenere il mio precario equilibrio fra Mark e la Cina. Mark, la sua assenza, il suo ricordo che mi martellava dentro ad ogni istante, non ci eravamo forse allenati entrambi alla lontananza? Quando sei lontano non sento la tua mancanza, sei sempre con me, dicevamo con le labbra sorridenti mentre tutto si faceva buio in noi, come avevamo saputo mentire. Voglio una vita comoda e tutto quello che c'è di meglio al mondo per baby. L'America è meravigliosa, Su Yen, dovresti venirci anche tu. Hong Kong non è sicura, è la roccia in bilico sull'abisso. Qualche tempo fa non ti avevano offerto una borsa di studio in un ospedale di New York? Che sciocca sei stata a rifiutarla. Pensa a tua figlia May, al suo avvenire, alla sua sicurezza e anche alla tua. Sicurezza. Molti la cercavano perché la loro vita era diventata insopportabile, un continuo terrore. Ma io non sarei stata capace di fuggire, nemmeno Mark. Se avessi tentato di farlo, sarei certo ritornata indietro. La voce di Mark. Come posso desiderare la sicurezza se non riesco a immaginarmi vecchio? Voglio andare dove più mi piace, senza bagaglio e senza mai mettere radici. Era giusto fuggire il pericolo, giusto era l'istinto della fuga, giusto il desiderio di sicurezza. A volte anch'io avevo paura. Ma era colpa mia se giudicavo la gente piccola e meschina, limitata dal pensiero fisso della sicurezza personale. Profondamente sepolto in questo mondo, era il talento del servo pigro che non aveva voluto avventurarsi nel mare pericoloso della vita. Per giungere a questo incomprensibile fine, gli uomini lavoravano con mirabile costanza e accanimento in attesa della pensione e di un tranquillo riposo, sognando a 20 anni il momento in cui avrebbero raggiunto i 65, aspirando da giovani a una sicura vecchiaia. Per la sicurezza della morte, rinnegavano la vita. Era la sicurezza ad armare e a riarmare le nazioni gementi sotto il peso degli armamenti e tuttavia escogitanti continuamente modi sempre più efficaci di uccidere. Certo, May ed io Avremmo potuto andare in America. Amici ci avrebbero prestato il denaro, si sarebbero comperati i passaporti, ogni difficoltà sarebbe stata facilmente superata. L'America era un luogo meraviglioso ed io amavo i miei amici americani, tanto generosi, tanto cordiali e sinceri, ma non potevo andarmene. Non potevo abbandonare la terra dove il padre di May, io e May stessa avevamo profonde radici. Non potevo pensare a May come a una cinese bianca, sradicata, aliena in terra straniera, col cuore rivolto per sempre alla patria che aveva lasciato dietro di sé. No, saremmo partite soltanto se ci avessero costrette a farlo. Scuotendo umilmente il capo, dissi a Sushen quello che sono sempre solita dire quando già sono decisa a non farne nulla. Forse hai ragione, Sushen. Ci penserò. Oh no. Era stata accolta dal Po Leung Kuk, l'ente per la protezione della virtù, che offre asilo ai bambini sperduti, alle giovani schiave maltrattate e a quelle ragazze miracolosamente scampate a un commercio immorale. L'istituto è sotto il diretto controllo del segretario per gli affari cinesi della colonia e le ragazze vi imparano a cucire e anche a leggere e a scrivere un poco. È molto intelligente, mi disse la direttrice. È ansiosa di imparare, portatele qualche libro la prima volta che verrete. Oh no, stava ricamando a punto croce e l'espressione del suo viso di ranocchia era ancora la stessa che avevo visto quel giorno al pronto soccorso dell'ospedale. La potenza del suo silenzio mi sopraffaceva e mentalmente mi aggrappavo a lei come se ella avesse potuto salvarmi da un disastro interiore. A lei, povera, piccola schiava che agli occhi della sua razza aveva perduto il suo solo bene, la verginità. Ancora oggi i cinesi fanno un feticcio della verginità nelle fanciulle e della castità nelle vedove, e spesso mi vengono portate ragazze da esaminare prima del matrimonio. Molte volte alla settimana redigo certificati comprovanti la verginità di una ragazza. Ben pochi cinesi sposerebbero una ragazza già toccata da un altro uomo, e siamo a Hong Kong nel 1950. Oh no? Dottore. Oh no, mi rispose come le avevano insegnato, alzandosi e inchinandosi. Chi ti ha dato questo nome? Oh no, non è un vero nome. Quando fui portata nella famiglia Su, ero una bambina che piangeva sempre. Mi rispose come se parlasse di qualcosa che non la riguardava affatto. Ci volle più di un anno prima che Oh no imparasse a sorridere. Dicevo, oh no, vi prego, oh no, per favore, e nient'altro. Vecchia madre Ching mi disse che era perché ero stata tanto maltrattata dal mercante che mi aveva venduta alla famiglia e così mi chiamò Oh No. Perché ti sei rivolta alla polizia? Chi ti aveva parlato della polizia a Hong Kong? In Cina tutti hanno paura della polizia. Con quella pazienza che rendeva ogni sua risposta la cosa più ovvia del mondo, Oh No, spiegò, è stato il mare. Non sono andata alla polizia. Ogni giorno guardavo il mare che giaceva fra due colline, parlando da solo come io parlavo da sola. E quando vecchio padrone tentò di prendermi per la seconda volta, corsi al mare. Un poliziotto sulla strada mi fermò e mi portò al posto di polizia, e lì c'era un diavolo straniero che mi chiese perché correvo. È andata così. Nei mesi che seguirono riudii spesso la sua voce, non leggera e chiara come quella di May, ma profonda e un po' rude. È stato il mare, diceva. Il pesce dorato. Adeline Palmer Jones aveva i suoi sicofanti, Ernest Watts i suoi discepoli. Paludato in una veste cinese color tortora che faceva spiccare i suoi occhi azzurri, puntò lentamente un dito al cielo mentre varcavo la soglia del suo appartamento. Affisso alla porta, un foglio di carta bianca proclamava: per vivere solo l'uomo deve essere o bestia o dio. Dal soffitto, legata con una sottile cordicella rossa, pendeva una sciabola samurai nel suo fodero. La poltrona per i visitatori era ampia e bassa, secondo la tradizione psicologica. Induceva alla dovuta umiltà in presenza di un essere superiore. Io avevo bisogno di un saggio, di un santo o di un dio. Ero confusa, alla ricerca di un oracolo, senza saperlo, dovevo essere molto infelice. Ernest Watts Aveva vissuto a lungo in Oriente. Era il pesce dorato, raro e coltissimo. La filosofia era il suo pane. Le parole magnifiche non lo facevano forse esultare? E non era forse odiato dai ciarlatani e dagli idioti, dai mercanti di parole e dagli scriteriati? Come avviene a tutti i saggi? Mi aveva rivolto la parola un giorno in cui l'avevo incontrato nel corridoio dell'ospedale, mentre una bufera scuoteva i vetri delle finestre, ululando la sua desolazione intorno ai muri grigi. Avevo letto Sartre? Confessai che l'esistenzialismo non era altro che un nome per me. Avevo letto. Crollai il capo, mi ritirai invasa da un reverenziale timore. Ahimè, i libri che amavo erano così pochi e riletti tante volte. Non mi tenevo al corrente della letteratura moderna e negli ultimi 10 anni non avevo aperto un solo romanzo. Ernest Watts aveva i suoi discepoli. Oltre a quell'eterno Peter Pan che era John Tam, avevo conosciuto altri giovani entusiasti della sua sapienza e della sua causticità. Che importa se alcuni mi erano sembrati un po' esaltati? Erano giovani e io avevo 32 anni. E si evitavano ogni contatto con i rozzi e gli imbecilli, e io, che vivevo immersa nella parte più sofferente, belante e puzzolente dell'umanità, mi sentivo inferiore al loro confronto. Ernest Watts possedeva sapienza e saggezza, e Mark aveva simpatia per lui. Questo genere di conversazione preziosa mi piace. Mi piace la gente che fa le cose bene, come Watts e te. Portai il mio interrogativo all'altare di Ernest Watts e sedetti di fronte a lui, decisa ad affrontare la brutale verità. Mr. Watts, scusatemi se vi disturbo, ma ho bisogno che qualcuno mi dica la verità, sono tanto confusa. Un mezzo sorriso mi diede coraggio. Mr. Watts, sono innamorata. L'orientale, impassibile, riservato, imperscrutabile. Non è altro che un mito. Non esiste popolo meno reticente del cinese, più ansioso di discutere i suoi mali fisici e morali. In Cina si sa sempre tutto di tutti. E mentre gli europei, giunti a un certo punto, coprono di un pudico velo il loro racconto, i cinesi continuano senza falsi pudori. In Cina non esistono cose innominabili. E così dissi. Amo Mark Elliott. Così dissi, perché tanto Mark e io sapevamo che amare è cosa ben più stupenda e meravigliosa che l'essere soltanto amati. E potete dirmi, prego, dove pensate che possa portarvi il vostro non corrisposto amore per Mark Elliott? Chiese Ernest Watts. Incurante dell'aggettivo, gli occhi bassi, risposi: Mark vuole sposarmi. E vedete, ci sono tante cose. Non potei continuare. Il suo corpo si era irrigidito, i suoi occhi erano fissi. Ascoltava, ma non me. Ascoltava qualcosa dentro di sé. Vi credete più altruista del normale? No, penso di essere normalmente egoista come tutti gli altri. Infatti, annuì Watts, congedandomi con un gesto della mano, lo siete. Mi alzai e me ne andai. Gli oracoli sono come i gattini che bisogna portare a casa in un cesto coperto, badando a tenere il coperchio ben chiuso affinché non scappino. Non avevo detto quello che avrei voluto dire. C'era qualcos'altro, qualcosa nascosto in me, ma non avevo parole per esprimerlo. Mi sentivo la lingua legata. Parole senza suono mi percorrevano tutta, guizzanti, incontrollabili, facendomi venire la pelle d'oca. Scrollai il capo come un cucciolo che si scuota l'acqua di dosso appena uscito dal mare e scrissi un bigliettino a Ernest Watts: grazie per aver fatto un topo del mio elefante. Naturalmente mi stavo comportando secondo la tradizionale cortesia cinese, ma improvvisamente 2 giorni dopo compresi dove mi ero ingannata. Avevo trattato Watts come un cinese. E invece egli era straniero, possedeva certamente sapienza e forse saggezza, ma della mente, non del cuore. Il suo cuore non era comprensivo, non sapeva ascoltare in silenzio. Ero andata da lui per parlare della Cina, invece avevo parlato d'amore. Beh, questa è la fine del pesce dorato, mi dissi. Ma Ernest Watts non mi aveva ancora detto la sua ultima parola. Mr. Franklin. Perché mai a Chongqing Mr. Franklin mi era stato tanto antipatico? A Hong Kong, sullo sfondo dei solidi edifici vittoriani, era un inglese come tutti gli altri, prosperoso, ben nutrito e benevolo, che si asciugava il viso sudato, sorridendo allegramente mentre ordinava l'ennesima bibita nello stentato inglese usato dai cinesi. Ragazzo, tu portare altro bicchiere Gimlet? E nell'ascensore ripeteva con lodevole cordialità: io fare con altro Gimlet in camera, eh? Ragazzo? Il vecchio addetto all'ascensore lo guardava impassibile. Mr. Franklin aveva lasciato Chongqing dopo la liberazione. Era felice di essere fuori dalla Cina, ma l'idea di dover tornare a casa lo rendeva triste. Sentiva la mancanza del suo gatto. Secondo lui, i soldati rossi erano molto eleganti ed efficienti, si comportavano con grande dignità e pagavano regolarmente tutto quello che prendevano. Tuttavia, c'erano troppi cortei e parate, troppe adunanze. Egli pensava che ben presto la Cina sarebbe ritornata a quella di prima. Non può durare, diceva. Non ho ancora conosciuto un cinese che non fosse disonesto in un modo o nell'altro. Ben presto torneranno i loro vecchi trucchi e la vita sarà di nuovo piacevole. Come molti di coloro che avevano vissuto a lungo in Cina, Mr. Franklin riteneva che soltanto gli occidentali sapessero far funzionare le macchine. Shanghai è in uno stato deplorevole. I cinesi non sono mai stati capaci di far funzionare nulla da soli e non impareranno mai a farlo. Né Sen né io ci prendemmo la briga di protestare. Avevo invitato Sen a prendere il tè con Mr. Franklin per amore di contrasto. Sen aveva maniere meravigliosamente inglesi e osservava Mr. Franklin con sguardo annoiato e divertito al tempo stesso. Nell'atmosfera di istintivo risentimento dei bianchi en masse, propria alla maggioranza delle riunioni cinesi di Hong Kong, mi aspettavo che Mr. Franklin avrebbe detto queste cose. Egli faceva parte dell'antico Oriente. Come individuo non significava nulla. Mr. Franklin era stato a visitare alcuni amici all'università e aveva girato per gli edifici ancora semidistrutti dall'ultima guerra. Qui gli studenti sono tranquilli, non rossi e turbolenti come in Cina. A Chongqing si rifiutano di fare gli esami per poter partecipare ai cortei che ritengono indispensabili alla salvezza del paese. Gli studenti di Hong Kong sembrano in buone condizioni finanziarie e molti hanno persino l'automobile. Sì, disse Sen. Molti figli e figlie di ricche famiglie cinesi della penisola Malacca, dell'Indocina, dell'Asia sudorientale e di Hong Kong frequentano l'università di Hong Kong. Mr. Franklin non era convinto dell'opportunità di dare agli asiatici un'educazione superiore, di genere occidentale. Eravate molto più felici nei tempi antichi, quando avevate la vostra cultura particolare. Vi abbiamo rovinato con le nostre idee occidentali, che non fanno per voi. Sun Yat-sen, che rovesciò l'impero cinese e fece la rivoluzione 40 anni fa, non aveva forse studiato all'università di Hong Kong? Vedete, ecco cosa succede a insegnarvi la democrazia. Non si fa che spingervi alla rivoluzione. Sen lo rassicurò. L'università di Hong Kong non insegna affatto la democrazia. Può insegnare la medicina, l'economia, la letteratura, ma non la democrazia, perché, come ogni altra istituzione coloniale, ha due pesi e due misure. Può darsi che abbia prodotto un rivoluzionario per irritazione, ma vi assicuro che il suo esempio non crea molti democratici. Beh, spero che abbiate ragione. Hong Kong, Mr. Franklin, è proprietà privata e la sua università è soprattutto un'università di ricchi. Buone famiglie abbienti, impieghi sicuri e ben retribuiti, facili carriere dopo la laurea, le banche, gli studi di avvocato, i medici liberi professionisti. Fanno quattrini a palate, non cercano che la sicurezza e la ottengono. Non esiste comunismo nell'università di Hong Kong. Ann Richards. Oggi gli scrittori si trovano impantanati, disse Anne lasciando cadere tavolozza e pennello. I pittori invece vivono ancora in un mondo privilegiato, costruendosi una visione loro propria senza preoccuparsi di compiacere gli altri. Lo scrittore vive nel mondo di tutti e al giorno d'oggi tutti leggono e quasi tutti scrivono. Io, pittrice istintiva, che comprendo soltanto gli oggetti e le persone, sono stata chiamata ad esprimere giudizi e a discutere idee. Anna era tornata da poco dall'Asia sud-orientale, come molti americani, e le era contraria all'aperto colonialismo, poiché gli americani amano l'idea della libertà e dell'uguaglianza per tutti i popoli. La sfrontata esibizione della ricchezza di fronte alla miseria, perpetua fonte di risentimento fra le razze, sgomentava e indignava gli americani. Siete ne scandal, aveva gridato Anna, agitando invano i suoi miseri 45 chili intorno ai tre massicci guardiani dell'ordine che stavano prendendo a calcio un indigeno sdraiato a terra. In un altro paese, Anne era stata addirittura aggredita con richieste di aiuti finanziari. Sono anticomunista, posso avere dei dollari d'oro? Era il ritornello che gli americani udivano spesso. Finiva col confonderli, col far loro dubitare del loro stesso idealismo. Troppo bene sapevano che i dollari d'oro imbottivano l'anticomunismo. Troppi anticomunisti venivano comperati con dollari. Il turbamento di Anne si esprimeva in fiotti di colore. Stava cercando di fissare sulla tela lo sgargiante tramonto e i suoi tentativi potevano dirsi più che riusciti. Desidero soltanto ritornare a Pechino e ora la Cina ci è tanto contraria. Fa male, Su Yan. Abbiamo cercato di aiutarla, abbiamo fatto del nostro meglio e ora tutto si è guastato. Persino i bambini digrignano i denti. Non riuscirai mai a toglierti la Cina dalla testa, Anna. È il tuo clima naturale, ti ha incantato, come ha incantato Mark. Mark. La mia vita è qui, non voglio partire, voglio rimanere qui per sempre. Anne ed io eravamo assai depresse. Le notizie non promettevano nulla di buono. Riarmo, minaccia di guerra, senatori che si davano un grande affare. La mia patria, imbaldanzita dal successo, proclamava che l'America non era che una tigre di carta. Si inventavano bombe sempre più micidiali, si scoprivano organizzazioni spionistiche. Il Giappone vendeva a più non posso ai porti della Cina settentrionale. A Hong Kong la situazione si faceva precaria a causa degli scioperi e della chiusura di molte fabbriche. Tutte le colombe portavano corone di baionette e stringevano bombe atomiche tra le zampe. A volte mi chiedo che cosa sia per te questo momento, Su Yan, mi disse Han. Per te che appartieni a entrambi i mondi, che leggi, scrivi, parli e pensi in entrambe le maniere, per te che sai sempre spiegare il significato recondito delle parole, deve essere terribile. E il tuo amore per Mark non fa che peggiorare le cose, vero? Sono combattuta, sì, fra i due mondi, e il pensiero di Mark rende la mia situazione terribile. Spero che non verrà mai il giorno in cui la tua nazione e la mia si troveranno in guerra, disse Anne. Il giorno in cui chiameremo la tua gente pance gialle e i nostri nemici di ieri onesti democratici. Chissà se un giorno tu mi chiamerai bestia feroce, vipera e spia, Su Yan. È già incominciato, sorrisi dolorosamente. Gli insulti sono già incominciati, Anne. Lo sai bene. Noi americani abbiamo sempre avuto una speciale tenerezza per la Cina, disse Han. Spero che ciò non renderà più intenso il nostro odio. Credo che faremo sempre una distinzione fra il vostro popolo e i vostri governanti. Ciò non avrà alcuna importanza, Han. È il popolo che combatte e che muore. Mi scriverai sempre, vero? Non mi dimenticherai. Siamo amiche, Su Yan, siamo amiche. Nulla potrà rompere la nostra amicizia, vero? Vero? Guardai Han senza rispondere. Sarebbe venuto il giorno in cui non sarei più stata sua amica. E Mark? L'avrei odiato perché il suo credo politico non era il mio? Sarebbe davvero accaduto? Io credo che ti sarò sempre amica, Anne. risposi infine. Se anche tu imparassi a odiarci, credo che non potrei sopportarlo, disse Anne.